visti da fuori. Hola Carmen, buongiorno, benvenuta. Hola Irene, buongiorno a te. Carmen Cordova scrive per una delle riviste a più grande diffusione in America. Sto parlando della Semana. Carmen Cordova è la corrispondente straniera che racconta l'Italia in Colombia. Prima di tutto, tanto per dare un'idea della tua rivista, del periodico su cui scrivi, che tiratura e che diffusione ha? Ha una tiratura di 1.300.000 copie certificate. È una rivista che si legge moltissimo, non solo in Colombia, ma anche in altri paesi di Latino America. Per esempio? Per esempio Venezuela, Panama, Messico, Argentina, arriva anche a Cile. Quindi tu, quando parli dell'Italia, raggiungi una popolazione vastissima, incredibile. Da quanti anni sei qua con noi, Carmen? Da 18 anni, Irene. E adesso, quando tu sei arrivata, naturalmente c'erano degli aspetti che probabilmente ti hanno colpito e che oggi non noti più. Ricordi il tuo primo giorno in Italia? Sì, lo ricordo benissimo. Sembrerà una cosa banalissima, ma mi ha chiamato moltissimo l'attenzione la quantità di cicche, di sigarette per strada a Roma. Beh, è una cosa che è migliorata poi in questi anni tuoi? Per terra. No, non credo sia migliorata. Le cicche per terra ci sono ancora. Adesso con il tempo ho fatto purtroppo anche io l'abitudine, però se devo parlare, il primo impatto è stato quello. Sai, alcuni corrispondenti avevano notato anche i bisogni dei cani per terra sul marciapiede e poi hanno registrato però un miglioramento nel corso degli anni per quel che riguarda questo malcostume specifico. Sulle cicche e sigarette c'è ancora molto da fare, ma hai dedicato anche articoli a questo aspetto? Sì, arrivata all'epoca facevo radio, quindi di queste cose ne parlavamo. È chiaro. E gli italiani che hai conosciuto quando sei atterrata all'epoca, come dici tu, e gli italiani di oggi, secondo te in cosa sono cambiati? Credo siano diventati più aperti, più disponibili al cambiamento. In che senso? Cos'è che te lo fa affermare? Io non so se sono io che adesso mi sento più integrata, anche se da subito sono stata in piazza, però all'inizio qualche sintomo di leggero razzismo lo sentivo personalmente. Sono stata anche vittima, e credo 2 anni fa che ci siamo sentiti, te l'ho raccontato. Negli ultimi tempi, con la velocità che cambia il mondo, vedo che anche gli italiani si adeguano, sono meno resti al cambiamento, anche dal punto di vista culinario. Qualche anno fa, 18 anni fa, gli italiani viaggiavano con la pasta, adesso sono aperti anche altri stili. A tavola hanno abbassato un po' le difese, diciamo, sono diventati più curiosi, nonostante, è chiaro, il primato della cucina italiana nel mondo abbia alimentato in questo settore una certa arroganza, una certa autoreferenza, per cui molti italiani... Sì, perché diversi hanno anche ragione, è talmente squisita che per certi versi hanno ragione. Hai parlato di Roma, la città in cui vivi, e indicando questo aspetto delle cicche di mozziconi di sigarette a terra. C'è anche qualcosa di positivo dal punto di vista dell'educazione civica che ti è accaduto a Roma? Beh, domenica scorsa ho avuto uno dei momenti migliori in questi anni a Roma. Amo amo questa città, ma vedo anche quanto sia, quanti problemi abbia, perché la vivo quotidianamente come tutti i romani. Domenica sono stata sorpresa perché ho visto un volto della città che fino adesso non avevo potuto toccare con mano, ed è stata una combinazione tra fortuna, senso civico ed efficienza dei carabinieri, perché mi hanno, in un posto relativamente affollato, mi hanno rubato la mia bici. Io mi muovo soprattutto in bici e quindi non trovarla è stato un colpo durissimo. Ma era la prima volta che ti rubavano una bicicletta? No, veramente sono la terza bici. E solo che con questa la cura avevi un rapporto particolare. La porto dentro, la porto in ufficio, la porto a casa, ma siccome era in un posto che mi dava sicurezza, l'ho lasciata per ben 4 ore fuori dal negozio. Ma legata? Sì, certo, legata. Ed in più coperta dalla bicicletta da un collega olandese che era con me, insieme a me, invece il ladro. Ma hanno rubato anche la bicicletta dell'olandese? No, perché la sua è meno appariscente, quindi hanno scansato la sua e hanno portato via la mia. Però questo non è accettabile, al danno la beffa, questo no. E quindi cosa è successo? È successo che quando sono arrivata si sono fatti avanti 2 persone che avevano visto, quindi si sono rivolti al negozio per segnalare il furto della bici. Nel frattempo sono arrivata, quindi sono andata dai carabinieri a fare la denuncia. Tornando sul posto del delitto, 2 ore dopo abbiamo scoperto che anche il ladro era tornato, per motivi incomprensibili, il ladro era tornato sulla scena del crimine, per dirla così. Quindi sono intervenuti i carabinieri della stazione Garbatella, che molto efficientemente lo hanno preso, si sono fatti dire dove era la bici e quindi sono andati a recuperarla dall'altro lato della città. E era nascosta tra le caverne di un monte alle porte di Roma. Che avventura, che avventura! Comunque, che ha segnalato a te anche una certa efficienza, e a sorpresa hai ritrovato la bicicletta che era stata sottratta. Ma Carmen, credo di notare, Irene, che non è, oltre all'efficienza dei carabinieri, c'è stato il senso civico di tutti i romani che hanno assistito alla sottrazione, sì. Insomma, ognuno ha collaborato in qualche modo. Parte, sì. E questo naturalmente alimenta anche una sensazione di sicurezza, perché poi questi piccoli episodi di microcriminalità sono quelli che contribuiscono a diffondere più di altri la sensazione che non ci sia stato, che non ci sia speranza per chi invece agisce correttamente. Luci e ombre dell'Italia in questo tuo racconto da corrispondente straniera immersa nella capitale. Gli ultimi articoli che hai scritto sulla Semana, di cosa parlavano? Ovviamente Berlusconi ancora se ne parla, la seconda sentenza del caso Ruby, ovviamente, sì. È un po' finanze vaticane, il nuovo percorso intrapreso da Francisco I. Un articolo di colore è stato sulla diminuzione del consumo di pasta in Italia. L'Italia è vista nel mondo come il paese della pasta per eccellenza, invece è diminuito. E ovviamente un po' di cultura, i bronzi di Riace che sono tornati al museo. E questo è quanto tu hai scritto ultimamente. La diminuzione del consumo di pasta, segnalata come così, è uno dei cliché, no? Sugli italiani: pasta, pizza, mandolino e mafia. Di conseguenza, ogni volta che si registra un cambiamento in questi settori, viene segnalato da voi corrispondenti stranieri. Ma c'è competizione tra voi corrispondenti, voi associati alla stampa estera lì a Roma, o vi nascondete le esclusive e gli scoop, o vi aiutate in qualche modo? C'è competizione, siamo nel mondo, nella vita, quindi c'è competizione. Credo una competizione, e soprattutto quando di un paese, di un solo paese, ci sono tanti corrispondenti, perché ci sono dei paesi che abbastanza coperti, come l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, quindi una sana corsa alla notizia, allo scoop c'è. Alla notizia un po' diversa dalla solita rilanciata delle agenzie. E tu hai detto bene, ci sono paesi ultra coperti e poi ci sono paesi come la Colombia, di cui in Italia si parla pochissimo, anzi quando lo si fa è solo per segnalarne la violenza. E, tant'è che tu sei qui e racconti di noi, ma non c'è un rapporto di reciprocità, tant'è che anche il discorso del vostro presidente tenuto il 7 agosto quando si era insediato, diciamo così, non si è aggiudicato nemmeno una riga in italiano, ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo ma non in Italia. È stato dunque molto bello quello che è stato pubblicato ieri dal Corriere della Sera, una pagina intera a firma Dacia Maraini su un festival della poesia che si tiene in Colombia, dove migliaia di giovani si sono dati appuntamento nella città di Medellin per ascoltare poeti di 70 paesi che si esprimono nelle loro lingue d'origine a rischio estinzione. Ed è stata, ci ha segnalato la Dacia Maraini, una lezione di pace. Conosci questo festival? Sì, lo conosco, il festival ha 24 anni di storia, anche se già da prima c'erano dei micro festival che sono quelli che hanno dato vita poi a questo. Io mi ricordo, uscendo dall'università, di essere andata diverse volte a sentire leggere poesia. Quindi da noi, questo festival è nato proprio nella mia città, Medellin, che è una città con una storia molto, molto particolare, bella, anche travagliata. E quindi la di cui si parla poco, l'attenzione di solito è su Bogotà, questa mega metropoli di 7 milioni di abitanti. E questo grande reportage di Dacia Maraini ci ha segnalato questa sorpresa, questi 5.000 giovani per ascoltare poeti di 70 paesi che si propongono di cambiare il mondo con una poesia. È decisamente interessante, di grande ispirazione. Carmen Cordova, grazie per quello che fai. Speriamo che tu racconti anche l'episodio della bicicletta nei tuoi prossimi articoli e tienici aggiornata naturalmente sul tuo lavoro. Ci vuoi salutare in spagnolo? Sì, Irene, hasta luego, un placer. Sì. Ed è stato un piacere tutto nostro avere con noi Carmen Cordova. Scrive per la rivista Semana, come avete sentito, è la corrispondente colombiana in Italia.